Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando ti ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credi, io non Angela, Angela, angelo mio, ma tu stasera invece di piangere guardi il mio viso in un modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, no, non andartene. Non puoi lasciarmi qua giù da solo, non è possibile che tutto a un tratto io possa perderti, perdere tutto.